Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Napoli from Italy. Napoli won the UEFA Cup in 1989 and they will play Athletic Club Bilbao. Athletic Club Bilbao runners up in the UEFA Cup 77 and runners up in the Europa League in 2000. Calcio, i preliminari sono molto importanti. Sono fondamentali, non si arriva all'orgasmo senza il preliminare corretto. E la Champions è sicuramente un'esaltazione meravigliosa. Come sta il Napoli a 20 giorni dai preliminari? Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. E come battizzo, contro il malocchio. Con il peperoncino e un po' di insalata mi protegge la Madonna dell'Ingoroneta. Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello Sterpeto. Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innominato. Poi magari la prossima volta andrà meglio, la prossima volta quella che conta, dove nell'urna ci saranno le squadre per i gironi della Champions League. Perché noi lo diciamo, siamo fiduciosi anche se poteva andare meglio. E quindi la prossima volta andrà sicuramente meglio. 800 24 00 24, martedì 19 agosto, ore 20:45, Stadio San Paolo, Napoli, Athletic Bilbao. Mercoledì 27 agosto al nuovo San Mamés di Bilbao, il ritorno peggio di così, dando un'occhiata alle 5 ipotesi di avversario del Napoli nel playoff di Champions League. Peggio di così non poteva andare. Raffaele Auriemma, ciao! Ciao, buongiorno a tutti. Beh, insomma, hai ragione, peggio di così non poteva andare. Noi siamo un po' fatalisti, guardavamo di soffiasso l'Athletic Bilbao, provando un po' a scongiurare, ma neanche il Lino Banfield è riuscito nell'impresa di allontanare questo spauracchio. I preliminari sono importanti, lo ricordava il presidente De Laurentiis, la Champions è un orgasmo, però bisogna passare da lì, bisogna passare dall'Athletic Bilbao. 800 24 00 24, da questo momento aspetto anche le vostre telefonate. Vai sui social network, in questo momento trovi tutti gli antinapoletani che esultano, già ragionano su una possibile eliminazione, tifosi del Napoli che sono a metà tra la fiducia e un po' di sana depressione. Io lo dico, 800 24 00 24, martedì 19 agosto, mercoledì 27 agosto, noi dobbiamo essere tutti napoletani, perché altrimenti sarebbe inutile stare qui a fare tutti i discorsi sul calcio italiano che va rilanciato, l'importanza del ranking UEFA. Bisogna mettere da parte per una volta le bandiere e essere tutti napoletani. Guai anche solo a immaginarla un'eliminazione, anche se, Raffaele, c'è da dire che il rapporto del Napoli con l'urna di non è un rapporto facilissimo, anche dando un'occhiata indietro, insomma, a quello che è successo negli ultimi anni. Sì, soprattutto in Champions, perché ricordo la prima volta con il girone composto dal Bayern Monaco, che poi andò a giocare la finale con il Chelsea, il Manchester City, il Villarreal, che all'epoca era una formazione di primissimo livello nella Liga, mentre nella scorsa stagione Arsenal, Borussia Dortmund, Olympique Marsiglia, quindi non gli è andata granché bene. Però la mia riflessione è un'altra: se neanche da testa di serie il Napoli riesce ad avere l'opportunità di affrontare o un'avversaria morbida o quantomeno di giocarsi la gara di ritorno in casa, ma mi spiegate a cosa serve essere testa di serie? Perché io sapevo fino a ieri che il vantaggio era di giocarsela in casa al ritorno, invece neanche così, per cui mi sembra quasi una presa in giro. Sì, anche se in realtà succede soltanto al Napoli. Poi io leggo gli altri quattro accoppiamenti dell'urna che riguardava il Napoli: Besiktas Arsenal, Standard Liegi Zenit San Pietroburgo, Copenaghen Bayer Leverkusen e Lille Porto. Ci sono almeno un altro paio di sfide che varrà la pena guardare. Athletic Bilbao che non è quello dell'anno scorso, ha perso Ander Herrera che era il giocatore più importante, che è andato al Manchester United per 36 milioni di euro. Resta una sfida difficile soprattutto a partire dal punto di vista ambientale, Raffaele. Sì, è vero, anche perché sai, giocare nel San Mamés, anche se è nuovo, ma comunque mi pare che la fase di completamento sia praticamente ultimata, la partita di ritorno, quella decisiva, è un elemento che lascia molte perplessità e qualche preoccupazione, rivedendo il Napoli della Champions ultima scorsa, quando proprio in trasferta l'ha persa la qualificazione, perché in casa il Napoli si esalta, un pubblico sfavillante, la musica della Champions determina eccitazioni ulteriori, però in trasferta io ho sempre visto un Napoli un po' in imbarazzo, perché magari l'incertezza, la scarsa esperienza, che poi diventa all'opposto anche una sfrontatezza, tanto da liberare gli avversari in contropiedi sanguinosi. Beh, io dico, ecco perché temo questa partita di ritorno al San Mamés, però mi incoraggia il fatto che un anno di Rafa Benitez a qualcosa dovrà essere pure servito a questa squadra, per cui quantomeno la si giocherà con uno spirito un po' più sereno e con una squadra più equilibrata. Scrive Marco 349-238-6666, per come hanno tifato i napoletani per la Juventus contro il Benfica, penso proprio che tiferò per l'Athletic Bilbao. Sì, però Giovanni, scusami, guarda, dimmi. Io sono un po' stufo di questo calcio che vede sempre Orazzi e Curiazzi gli uni contro gli altri. Cioè, mi sembra l'Italia irrisolta dei comuni. Non è che voglio fare ora una introspezione antropologica del nostro Stato, però io direi basta. Cioè, se dobbiamo sfogare tutte le nostre tensioni e frustrazioni sul pallone, questo calcio andrà sempre peggio, per cui almeno sul pallone cerchiamo di darci una regolata. Per cui non volete tifare per il Napoli, ma almeno non tifate contro, perché sinceramente io, di questi napoletani che hanno tifato contro la Juve, secondo me non è che è vero tanto, magari possono sorridere, ridere e qualche volta anche scherzarci su, ma secondo me nessun napoletano tifa contro un italiano. Comunque io l'ho detto, io tifo Napoli, sono napoletano a partire da martedì 19 agosto 800 24 0024. Se volete dichiararvi anche voi potete telefonare. Secondo te, Raffaele, verrà un po' voglia De Laurentiis di fare in fretta il regalino mercato che Benitez aspetta? Secondo me no, per un semplice motivo, perché il Napoli ci ha provato tanto prima di arrivare ad oggi, e se non ci è riuscito in tutto questo periodo, trovo complicato che ci riesca nelle prossime ore. Poi magari tra 10 minuti annunceranno Fellaini e, come ovviamente spesso accade, verremo smentiti. Però proprio perché adesso il Napoli affronta l'Athletic Bilbao, io immagino anche un calciatore che debba venire a Napoli vuole prima capire bene se ci sarà la Champions o no. Io questo lo comprendo dal lato di chi deve fare questa scelta, perciò secondo me bisognava chiudere un po' prima qualche operazione sulla quale il Napoli ci sta lavorando da parecchio tempo, e Fellaini è una di quelle. Ma non dimenticherei neanche Sandro e Lucas Leiva, che sono quei profili per i quali veramente ci sarebbe una svolta a centrocampo, perché è lì che il Napoli deve cambiare qualcosa. Nel suo insieme è una squadra forte, competitiva, perché ha un anno in più, perché ha ritrovato Zuniga, ha ritrovato Amsic e con Mertens e Insigne, che hanno giocato un anno insieme a Higuain. Per cui il Napoli oggi è una squadra competitiva, soprattutto nella sfida che vale un'intera stagione, 11 contro 11. Gara secca, per me il Napoli può battersi contro chiunque, diciamo tra quelle della sua portata. Poi ci sono le che non le vediamo e non le vedremo nei prossimi 10 anni. Sì, però, a maggior ragione c'è da avere anche un po' di ottimismo. Non dobbiamo sottovalutare l'Athletic Bilbao, anche se ha venduto Herrera, perché questa è una squadra che è arrivata quarta in Liga. Vuol dire che prima del Bilbao. altri. Prima del Bilbao sono arrivate Real Madrid, Barcellona, soprattutto è arrivato l'Atletico Madrid, però è anche vero che poi da stagione a stagione le cose cambiano. Ringrazio Raffaele Auriemma. Ciao Raffaele, ci sono stati anche i sorteggi di Europa League, c'erano per il preliminare Torino e Inter, Torino che va a Spalato e Inter che va in Islanda contro questa squadra, lo Stjarnan. Vi invito, andate su YouTube, scrivete Stjarnan e cercate il motivo per cui gli islandesi sono famosi. 800 24 00 24. Adesso parliamo anche della guerra delle banane, Tavecchio, Albertini, il comunicato di 9 club di Serie A che sembrava dovesse cambiare tutto e invece almeno ieri sera non ha cambiato niente. Tutti convocati. Vecchio, ma lei è razzista? Ma non scherziamo, vorrei dire, in periodo non sospetti, io mi sono occupato di integrazione. Proporrò la nomina di un consigliere delegato alla lotta contro la discriminazione razziale per favorire l'integrazione. Questa è la novità. Io spero tanto che sia un atleta, possibilmente un calciatore. Credo anche che nell'eventualità, visto che la Lega di A, come si è scritto, ha appoggiato Tavecchio, non il sottoscritto, la riflessione prima va girata sicuramente all'altro candidato. E noi abbiamo chiesto insieme altre 8 società, quindi siamo 9 in totale, ma io so per certo che ci sono altre 3 società che non hanno firmato questa lettera, ma sono anche loro dell'idea di non votare né Tavecchio né Albertini, quindi la maggioranza della Serie A oggi è, diciamo, non è più a favore di Tavecchio e neanche di Albertini. In questo momento i poteri forti sono contro di me. I miei poteri forti sono il calcio di base, il mondo dei giovani e il mondo del volontariato. Che per lei dicono che è un candidato dei poteri forti. Ah, non mi sembra. Cosa sembra poteri... delle cose che dicono. Ma forse sono sbagliati, nel senso forse è il contrario. Mi sembra che in questo momento tutti questi poteri forti siano concentrati contro il bene del calcio italiano, visto che siamo all'8 di agosto. Oggi sono 45 giorni esatti, 45 giorni esatti dal pomeriggio di Natal, il giorno che ci buttò fuori dal mondiale brasiliano con seguenti dimissioni del presidente Abete e del CT Prandelli, e siamo ancora qui a discutere di banane, di poltrone, un po' sullo sfondo ci sono anche i programmi, però la verità è che non siamo ripartiti. Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Siamo ancora qui a discutere dove sono i poteri forti, con chi stanno i poteri forti? Soprattutto non abbiamo praticamente mai discusso i programmi, perché i programmi dei due candidati sono passati in secondo piano, anche se un piccolo accenno a un programma ben fatto, che sarebbe quello di Tavecchio, lo ha fatto il presidente del CONI Malagò, però di programmi non si è mai parlato, si è parlato di uomini e si è parlato soprattutto di quello che rappresentano, perché poi il problema vero, come io ho scritto un po' di tempo fa, non è tanto Tavecchio, ma è tanto chi sta con lui e chi continua a stare con lui in questo momento, quello che lui rappresenta. Noi vogliamo un rinnovamento del nostro calcio dopo quello che è successo al Mondiale in Brasile, dopo quello che era successo anche 4 anni fa in Sudafrica, e Tavecchio, secondo me, ma anche secondo la Gazzetta, non rappresenta questo rinnovamento, non lo rappresenta perché arriva portato da chi in un certo senso ha governato il bello e soprattutto il brutto del calcio negli ultimi anni. Sì, non so se hai visto, ma hai visto certamente l'intervista di ieri sera al TG1, Tavecchio si è difeso, non sono razzista, non scherziamo, ha lanciato questa proposta, quella di un consigliere delegato per la lotta alle discriminazioni razziali, ha parlato anche delle donne, sintesi finale, quello che doveva essere un momento di prova di forza, il documento di metà dei club di Serie A, alla fine, almeno al momento, non ha prodotto nessun risultato, perché Tavecchio non molla, non si ritira, non fa nessun passo indietro. Mancano poco meno di 72 ore al momento delle elezioni e non si vede in questo momento una via d'uscita. Sì, ma io sono d'accordo, Tavecchio non è razzista, Tavecchio ha soltanto fatto una battuta infelice che però è una battuta che lo porta a essere squalificato. Se un giocatore fa una battuta di questo tipo in campo poi viene squalificato. Non vedo perché il prossimo presidente federale possa permettersi di sbagliare tante volte, perché quella è stata una delle tante battute sbagliate che ha fatto fino a quell'ultima su Kennedy di qualche giorno fa, poi debba continuare imperterrito ad andare avanti. Il problema è che per adesso le società di Serie A che si sono dichiaratamente schierate contro Tavecchio ma non pro Albertini, e questo purtroppo è anche significa che la candidatura Albertini non è forte, non può reggere il confronto, perché se chi non sta con Tavecchio non sta con lui vuol dire che lui non ha convinto nessuno. Però ci sono, a quanto dicono Cairo, che avete sentito prima, ma anche quanto dicono altri attori delle prossime elezioni, ci sono almeno tre società in bilico. Però se queste società non escono allo scoperto, prima di lunedì si andrà alle votazioni e la matematica o l'aritmetica che dir si voglia sono ancora con Tavecchio, anche se non avrà quella che sembrava una maggioranza di 70-75% al momento dell'elezione, però lui con ogni probabilità diventerà presidente federale e poi dovremo aspettare i passi falsi per arrivare all'impeachment, cioè a un commissariamento. Sì, oggi c'è il nuovo presidente della Sampdoria, Ferrero, che chiede il voto palese e non il voto segreto. Può essere molto rischioso questo comunque. Sì, potrebbe ricompattare gli schieramenti. Come lo schieramento di Tavecchio ha agito in questi momenti, soprattutto il presidente della Lazio, Claudio Lotito, per come lui si sta battendo a favore di questo suo candidato, presenziando anche la Sampdoria di Serie B, dove lui non ha... era il rappresentante della Lega di Serie A, cioè sta facendo tutto lui, la vera campagna di Tavecchio la sta facendo lui. Sì, va anche in assemblea al posto suo, è successo ieri all'assemblea di Serie B. Ma quello che poi mi suona male è anche quando sento qualcuno che dice la domanda, ma come faremo a mandare Tavecchio all'UEFA o alla FIFA in rappresentanza dell'Italia? C'è qualcuno che dice, ma non è detto che vada lui. Quindi il pericolo è che noi eleggiamo un presidente che poi è ostaggio di chi lo ha fatto eleggere. Lui dice, non ho cambiali da pagare con nessuno. Sarà vero? Oggi come oggi io ho molti dubbi su questo. 800 24 00 24, poi daremo spazio anche alle telefonate, però ti giro alcune delle domande che ci stanno scrivendo gli amici da casa. La prima: Albertini rappresenta o no il nuovo dove è stato negli ultimi anni, in particolare negli ultimi 7 anni? Purtroppo è vero, Albertini non ha fatto abbastanza per rappresentare il nuovo, però certamente rispetto a Tavecchio lo rappresenta di più, perché è vero che lui è stato anche lui in federazione, in questa federazione che ha sbagliato, anzi ha seguito la squadra nazionale. Lui va ricordato che si è dissociato prima del mondiale, lui era stato uno di quelli che aveva litigato con Abete e con il CT per la scelta del ritiro a Mangaritiba, quindi qualche passo, anche se non forte, lo aveva sicuramente già fatto. E soprattutto Albertini mi sembra che non rappresenti invece certi personaggi che hanno governato e malamente il calcio nell'ultimo periodo. Poi Roberto da Verona, ma perché non si parla delle condanne di Tavecchio? Se ne è parlato, non è vero che non se ne è parlato. Sono riferito al passato di Tavecchio, è tutto passato in giudicato e se ne è parlato di questo, se ne è parlato di alcuni traffici legati anche ai campi in erba sintetica, dove però Tavecchio non è uscito coinvolto, e però non si è arrivati a nulla. Ecco, il problema vero riguardo a Tavecchio è anche lui è stato sottoposto a un bombardamento mediatico, e non soltanto, perché anche tutta l'opinione pubblica si è scatenata contro di lui ancora prima che diventasse presidente federale. Una volta che diventerà presidente, temo per lui che tutte queste attenzioni sulla sua persona si moltiplicheranno e quindi sarà molto, ma molto difficile per lui. Sì, ha ragione anche chi scrive, De Piero, c'è stata una campagna contro Tavecchio, lui la reputa ossessiva, chiede se ha una spiegazione. Secondo me non è stata ossessiva, se uno si candida a diventare numero uno della Federcalcio è giusto. Poi va incontro, e se poi ogni volta che parla fa una gaffe è ovvio che la campagna poi sembra diventare ossessiva, ma in fin dei conti se l'è andato a cercare lui. Io ho fatto un esempio, lui era un po' come Usain Bolt al via di una finale dei 100 metri che vince vinceva anche correndo a marcia indietro, quando si fece squalificare in Corea per falsa partenza. Lui ha rischiato la squalifica per falsa partenza perché era favoritissimo, ha però attirato malamente le attenzioni su di sé, sbagliando fin dal giorno in cui ha presentato il suo programma, perché poi tutto il focus non è andato su un programma che, dicono, ben fatto, anche perché lo avrebbe aiutato a farlo anche gente di un certo spessore, però è andato tutto sulle banane e su tutto il resto, quindi l'errore clamoroso è stato quello, è stato suo, non di chi ha cercato poi di criticarlo. Sì, quali sono queste società che si sfilano? C'è chi dice il Palermo, ma ti do la notizia in diretta, presidente Zamparini non era felicissimo di parlare dell'argomento e quindi ha declinato l'invito, poi si dice l'Atalanta? L'Atalanta, il Verona e un rumor dall'ultimo momento darebbe anche l'Inter, un po' incerta, anche se io a questo ci credo poco, perché l'Inter mi sembra che si sia completamente schierata con Galliani, Lotito e con quella parte che rappresenta un po' anche una parte del duello televisivo, del duello tra Sky e Mediaset, della parte che sta con Infront e di chi sta contro o non sta letteralmente con Infront, quindi sono anche queste due correnti che possono orientare. Sky è scesa in pista due o tre giorni fa abbastanza chiaramente contro Tavecchio, mentre ovviamente Mediaset si guarda bene da fare una presa di posizione in questo tipo, visto che Galliani sappiamo bene dove da che parte sta. Sì, però, difficilmente spiegabile la posizione dell'Inter, poi vedremo, ci sono ancora una settantina di ore. Possiamo azzardarci nel dire che se ci fosse ancora Moratti alla presidenza, probabilmente l'Inter sarebbe la decima società contro Tavecchio. Basterà una decima società, ammesso che esista, da qui a lunedì mattina per cambiare qualcosa? Una decima... O serve l'undicesima, la dodicesima? Con l'undicesima credo che poi lo stesso Tavecchio dovrebbe arrendersi, lui ha detto... Io ho la rappresentanza, ho la maggioranza di tutte le leghe, se dovessero essere 11 società la Lega di Serie A, che poi non ha il peso dei voti più importante, ma sicuramente l'apice del nostro movimento, dovesse avere una maggioranza contro di lui, credo che dovrebbe arrendersi all'evidenza. E comunque, insomma, in questo momento la fotografia è questa: Juventus, Roma, Fiorentina, Torino, Sampdoria, Cesena, Empoli, Cagliari e Sampdoria firmatarie di questo documento. Milan, Lazio, Inter, Udinese, Genoa, Parma, Chievo e Napoli dall'altra parte, Verona, Atalanta, Palermo in mezzo, ancora indecise. Poi c'è chi dice il Napoli, il vice direttore della Gazzetta Umberto Zappelloni ci ha detto c'è qualche voce, c'è qualche rumore sull'Inter. Ci sono soprattutto... se si è... ha parlato spesso di cambiamento anche dalle vostre dalla vostra radio, dal vostro canale, sì, però poi nel concreto questo momento non la, è voluto la sua scelta scendere è questa. E continua a rifiutare ogni proposta di intervista o di intervento, dicendo che parlerà delle elezioni avvenute, quindi non si capisce da che parte voglia stare, insomma, anzi lo si capisce fin troppo bene forse. Grazie direttore. Grazie a voi, buona giornata. Grazie Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Tranquillizzo un tifoso del Torino, perché non è l'Hajduk Spalato la squadra che se la vedrà con il Torino nel preliminare di Europa League, ma è l'RNK Spalato. Oggi è tornato il Milan, è tornato dalla trasferta negli Stati Uniti. Vi faccio sentire Inzaghi sulla pazienza che i tifosi del Milan devono continuare ad avere. Un po' di pazienza, io ho sempre detto che i tifosi del Milan saranno orgogliosi di questa squadra, perché sono sicuro che dalla prima di campionato daremo tutto quello che abbiamo. Io sono convinto che arriveremo nella posizione di classifica sicuramente che ci meritiamo. Poi non so gli altri, sicuramente ci sono squadre più avanti di noi perché sono consolidate, perché hanno messo anche innesti nuovi su squadre già molto forti. E poi su Balotelli, che è il grande dubbio di quest'estate, almeno per quanto riguarda il mercato del Milan. Ma guarda, io a Balotelli mi auguro che continui ad allenarsi come sta facendo in questo periodo, perché ho trovato un ragazzo che si sta allenando bene, che sta facendo bene, che è amato dai compagni, per cui tutto quello che si diceva per ora non l'ho trovato, e se lui va avanti così sono molto sereno. Convocati. Are you happy now that the gods are dying. What do you dream of? Heston with omniscient beer. You should be happier now. Un morso ancora? Ancora un morso? La morsa ancora forse? La morsa di nuovo? Difatti la mia prima intenzione era la morsa ancora. Sembrava più un morso che una testata. La morsa di nuovo? Ma incredibile! Ma incredibile! E ti fanno male i denti anche! Avrei preso l'osso! No, dopo prende la reazione di Chiellini. Qui morte! È morso! Qui morte. È un morso! Qui ma morte. È clamoroso! Lì a morso! Ma è clamoroso! Ma ancora una volta, la terza volta in carriera! Clamoroso! E questo è il morso. Ma è chiaro, è netto, è stato che sia qualsiasi cosa valuta l'arbitro, purtroppo deve fischiare rosso. C'è anche una chiara simulazione dopo, perché sa benissimo di aver fatto qualcosa che non andava fatto. Volevo chiedere come sta la spalla. L'ultima immagine che ho di te è di un morso di Suarez sulla spalla. No, sto bene. Speriamo di cancellare quelle immagini, quelle magari immagini più belle di partite e di vittorie, che sono sicuramente più belle. La spalla di Chiellini sta benissimo, non si accettano scommesse su cosa sarà della squalifica di Suarez. Proprio in questi minuti se ne sta discutendo il TAS di Losanna. A Barcellona sono sicuri che Suarez sarà restituito al campo in tempo per l'inizio della prossima stagione, almeno per quanto riguarda la squadra di club. 800 24 00 24, siamo in attesa di notizie anche da Firenze, perché è terminato il vertice tra Cuadrado e il presidente della Fiorentina Andrea Della Valle, e tra una decina di minuti dovrebbero esserci le dichiarazioni di Andrea Della Valle. 800 24 00 24. Francesco da Pisa. Francesco, buongiorno. Buongiorno, prego. Grazie per l'ospitalità. Volevo così semplicemente intervenire a proposito di Zampanini e quindi il Palermo e le sue prospettive, in quanto ritengo la squadra molto giovane e quindi con buone prospettive, visto che il mondiale tutto sommato lo hanno deciso i giocatori giovani. E inoltre sulla questione, appunto, che l'allaccio pure alla questione da vecchio, che è semplicemente immorale, al di là dello scandalo naturalmente che è implicito nell'enunciazione di quelle frasi, di quei concetti che lo ha avuto il Tavecchio. Però dico, in ogni caso, questi grossi club che appoggiano la candidatura di Tavecchio, ma dico, ma una certa etica penso ce l'abbiano, hanno storie di cent'anni e passa e dintorni. Ma come fa un Milan o un Lotito, eccetera, eccetera, e quant'altro, ad appoggiare una simile candidatura? È una questione di politica sportiva, mi sembra che ne stiamo parlando da almeno un paio di settimane, ma l'ha spiegato molto bene anche Umberto Zappelloni, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Poi dietro alle candidature ci sono interessi, ci sono giochi di potere, c'è chi comanda in Lega, che significa comandare comunque un'azienda che fattura quasi 2 miliardi di euro all'anno, che gestisce diritti televisivi per 1 miliardo di euro all'anno. C'è tutto questo. Poi Tavecchio è scivolato sulla frase razzista delle banane e si è aperta la discussione. Però non è rimasto sotto i fari soltanto per la frase della banana. Sarebbe ingenuo pensarlo. Santo da Milano, Santo. Sì, eccomi. Eccoci. Salve. Prego. Sì, io comunque volevo aprire un attimo con l'iniziale che avete fatto del Napoli. Io sono un tifoso juventino e onestamente l'11 agosto del 2012 mi ricordo ancora l'atteggiamento del Napoli a Pechino, di come si è comportato. Quindi non, chiaramente non tifo mai il Napoli anche in Coppa, perché non è una questione di antisportività, però insomma, credo che ognuno tifi la propria squadra. Sì, ma è anche un po' di miopia, però, Santo, no, mi perdoni. Poi stiamo a discutere di ranking UEFA, ci lamentiamo se abbiamo perso una squadra, che significa anche perdere soldi, significa impoverirsi, significa essere comunque meno competitivi tutti insieme. C'è anche un po' di miopia, Santo. Sono d'accordo, però credo che l'onore bisogna conquistarlo in campo. e il rispetto soprattutto bisogna conquistarselo in campo. Se viene meritato, bene, tutti siamo qua ad approfondire il Napoli. Ovviamente il tifoso è la propria squadra e quindi fa fatica un attimino a essere contento per le vittorie dell'avversario italiano. Allora, al di là di questo, comunque il mio intervento era su Tavecchio. Io insomma sono un po' disgustato, è deplorevole quello che ha detto Tavecchio, ma non è secondo me questo il motivo che spinge a non essere d'accordo con la candidatura. Io credo che comunque, anche se dovesse essere eletto, sarebbe una presidenza monca perché saranno metà delle squadre a non appoggiarlo. Sì, sarebbe una presidenza che difficilmente potrebbe portare a un qualche risultato concreto, difficilmente soprattutto, ma questo lo scrivono anche ieri i 9 club che si sono dissociati in quel documento chiedendo sia a Tavecchio che ad Albertini di fare un passo indietro, difficilmente sarebbe una presidenza in grado di fare quelle riforme che in questo momento servono al calcio italiano, riforme che ovviamente hanno bisogno di un consenso più ampio. Sebastiano da Chieti. Sebastiano. Sì, prego. Prego. Niente, chiedevo come mai tutto questo accanimento verso questa persona e quantomeno lasciamole provare. Sì, l'accanimento secondo me viene dal modo in cui si è posto, viene dal suo curriculum, viene insomma, Sebastiano, mi sembra inutile riaprire un discorso che è stato ampiamente fatto e toccato in queste due settimane. Lasciamolo provare, e allora può anche provare qualcun altro, almeno questo è quello che penso io. Grazie Sebastiano, stiamo aspettando le dichiarazioni di Della Valle, poi per fortuna c'è anche il mercato, c'è il calcio giocato, c'è anche tutto il resto. Molto presto con l'arrivo di Andrea Della Valle al centro sportivo della Fiorentina attorno alle ore 8:50. Il giocatore è entrato da un'entrata secondaria quadrata assieme al proprio procuratore Alessandro Lucci. La notizia è che all'ora di pranzo ci sarà questo incontro subito dopo l'allenamento mattutino. Parte quadrato destro, gol! E la Colombia in vantaggio. Non ci siamo visti la settimana scorsa, sono ormai due settimane che non ci vediamo, per cui direi che l'insidia di Galliani non è così forte. Abbiamo alcune società anche estere che sono interessate a Cerci, però vediamo. Io diciamo che se non c'è un'offerta straordinaria e se lui, soprattutto lui, alla base è se lui non mi chiede di andare, allora il discorso è già chiuso. Qualora ci fosse una grande offerta e lui volesse andare, allora il discorso è diverso. Ma se lui non mi chiede nulla, io sono felice con lui. Vidal è un giocatore nostro, noi l'anno scorso abbiamo proceduto a rinnovare il contratto perché consapevoli delle capacità e del ruolo che poteva avere nel contesto della nostra rosa. Si parla molto di trasferimenti, ma in realtà il trasferimento potrà avvenire solo ed esclusivamente se il giocatore verrà a chiedersi di spostarsi. Oggi non l'ha fatto. Non l'ha fatto e quindi credo che anche nella stagione 14-15 farà parte del nostro organico. Cerci non ha ancora chiesto la cessione, Vidal nemmeno, almeno a quanto risulta, anche se oggi la stampa inglese scrive che c'è un'offerta del Manchester United molto vicina a quei 55-60 milioni di euro che sarebbe il prezzo fatto dalla Juventus. E soprattutto siamo in attesa di capire che fine fa Cuadrado, perché, e lo ripetiamo, si è chiuso l'incontro tra Andrea Della Valle e Cuadrado e a minuti dovrebbe arrivare una dichiarazione di Andrea Della Valle. Saluto Xavier Iacobelli, ciao direttore. Buongiorno a voi, buongiorno agli amici ascoltatori da calciomercato.com. Cosa esce da Firenze? Stiamo aspettando anche noi perché siamo molto interessati, perché tra l'altro è stata già una lunga giornata. Andrea Della Valle stamane è stato molto mattiniero a ruota è arrivato Cuadrado. La sensazione però, sai, il mercato si fa minuto per minuto e quindi è evidente che le sensazioni siano un conto e poi i fatti concreti siano altro. Però la sensazione stamane era che si potesse trovare un accordo quantomeno per la permanenza di Cuadrado per un altro anno in maglia viola. Però questa è la sensazione alla luce dei segnali ricevuti anche dai nostri cronisti presenti a Firenze. Ora stiamo soltanto aspettando di capire se questa sensazione e queste anticipazioni vengano confermate nei fatti. Certo sì. È che la Fiorentina non si chioda da un'iniziale richiesta di almeno 40 milioni di euro, altrimenti non se ne parla. Credo anche abbia ragione, vista da un certo punto di vista l'unicità di Cuadrado dal punto di vista tecnico, tattico, in un panorama non solo italiano, ma credo anche europeo. Cuadrado del resto che ha fatto un ottimo mondiale, non si vede perché debba uscire da quell'ottimo mondiale con un valore non sensibilmente aumentato. 800 24 00 24, noi stiamo qui, aspettiamo le dichiarazioni di Andrea Della Valle. Ti chiedo un minuto, direttore, c'è il traffico. Convocati. Oltre a Cuadrado poi c'è anche la vicenda di Vidal, Xavier Iacobelli. Abbiamo detto questa mattina, stampa britannica scatenata su questa presunta offerta del Manchester United. Mi pare di aver capito, non c'è mai stata una vera chiusura della Juventus. Al di là delle parole, c'è però che ci si avvicina pericolosamente a Ferragosto e poi diventa difficile per tutti, in primo luogo per la Juventus, pensare di chiudere la storia con Vidal. È assolutamente così, perché tanto prima la situazione viene chiarita in un modo o nell'altro, quanto meglio è per la Juventus, per lo stesso Vidal e per eventualmente il Manchester United. Ma anche qui vale lo stesso discorso che abbiamo fatto poc'anzi per Cuadrado. O il Manchester United davvero, concretamente, che un conto sono i rumors e le indiscrezioni, un altro invece sono le proposte messe nero su bianco, si presenta in corso della Leo Ferraris con 45 milioni di euro, e allora credo che la Juventus prende in seria considerazione l'ipotesi di cedere Vidal, altrimenti Vidal rimane felicemente bianconero, ha prolungato il contratto, ha ribadito di trovarsi molto bene al di là di alcune dichiarazioni rimbalzate durante il mondiale, ma sappiamo benissimo come e quale possa essere il tenore di queste dichiarazioni. Quando gli hanno chiesto se a lui piacesse giocare nel Real Madrid o nel Barcellona o nel Manchester United, è chiaro che non potesse che rispondere affermativamente, ma questo è un conto, e un altro invece intavolare una trattativa seria per la gestione di questo giocatore. Sì, poi c'è il tratto distintivo che vale un po' per tutto il calcio italiano. Quest'anno finora sono mancati grandi acquisti. Un anno fa celebravamo Higuaín, il ritorno di Pepito Rossi, Mario Gomez. Quest'anno questi acquisti mancano però soprattutto le cessioni. Io ricordo che un anno fa, più o meno di questi tempi, dalla Serie A erano partiti giocatori come Cavani, come Marquinhos, come Jovetic, cioè giocatori che insieme avevano mosso cifre molto importanti. Mi sembra che quest'anno Vidal a parte e forse Cuadrado, ma siamo comunque su valori diversi, ad esempio da quello di Cavani, il calcio italiano non abbia nulla da offrire per poi finanziarsi sul mercato mondiale. Questa è un po' l'impressione che ho io, direttore. No, è un'impressione suffragata dai fatti. L'eccezione, ma parziale, si chiama Immobile, perché l'affare l'ha fatto il Borussia Dortmund. Pagare soltanto 18,5 milioni di euro, questa è la valutazione ufficiale che il Borussia Dortmund ha comunicato, che non c'è ragione di dubitarne. Secondo me è stato un affare, considerato che stiamo parlando del 23enne capocannoniere dell'ultimo torneo di Serie A, che ha realizzato 22 gol senza tirare rigori. Peraltro mi pare che in occasione del test con il Wroclaw Immobile si è presentato alla grande con quello splendido gol che ha segnato. Però per il resto è la conferma di quanto grave sia la crisi economica che attanaglia il nostro calcio. D'altra parte tutto viene in questo sistema che è radicalmente da rifondare. Due giorni fa abbiamo ascoltato il signor Lotito, presidente della Lazio, difendere Tavecchio per quella imbereconda e ignobile affermazione di stampo razzista, affermando che Tavecchio però voleva sbagliato la formulazione, cito testualmente, del suo concetto, ma voleva sottolineare che l'importante è importare buoni stranieri. Noi di calciomercato.com ieri ci siamo fermati a 22 per carità di patria e per rispetto del fegato dei tifosi laziali, nel computo degli stranieri che non hanno lasciato il segno in questi 10 anni di gestione lotitiana della Lazio in maglia biancoceleste. Allora qui si tratta di predicare bene e di razzolare bene. Non può essere Tavecchio, non può essere Albertini la risposta in mani del calcio italiano. Ma adesso Sottavecchio l'aveva detto quel giorno, poi capita che arriva Optipoba e, certo, e prende la maglia da titolare della Lazio. L'altra metà della battuta la lasciamo stare. 800 24 00 24, poi ti chiedo dove va Cerci, perché ancora non ho capito. Intanto però Giacomo d'Alessandria. Giacomo, buongiorno. Prego. No, volevo dire questo, mi sembra che ci siano altre parti, che anche dalla parte, diciamo, della federazione ci sia una certa riluttanza a appoggiare Tavecchio, ma non riesco a capire, mentre uno ha qualche cosa sulla coscienza, si debba chiedere anche ad Albertini di fare un passo indietro, che è una persona pulita che non ha niente da, niente da dire. Sì, è stato il paradosso del documento di ieri, che alla fine ha definitivamente affossato le possibilità numeriche di Albertini, detto che credo Albertini avesse davvero pochissime chance di diventare presidente della Federcalcio. Jacobelli. Sì, è così, ma anche perché c'è un peccato originale che riguarda Albertini, che per 7 anni è stato vicepresidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, il vice diabete, oltre che capo delegazione dell'Italia al mondiale brasiliano, e annunciante le dimissioni prima che questo mondiale si disputasse, purtroppo con esito infausto per la selezione strandese. Io penso che in questo momento, più che mai alla luce anche della profonda spaccatura che abbiamo registrato ieri sera con il comunicato della Juventus, della Roma, della Fiorentina e delle altre 6 società di Serie A che hanno chiesto sia all'uno sia all'altro candidato di ritirarsi, sia impossibile, nonostante le dichiarazioni di facciata di Tavecchio e di chi gli tiene bordone, penso a Lotito, penso a Macaldi, penso a Carraro, penso a Galliani, e già questo la dice lunga sull'elemento di novità della rivoluzione mesozoica che dovremmo sorbirci l'11 di agosto se Tavecchio venisse eletto. Ma se venisse eletto sarebbe un presidente dimezzato, perché con mezza Serie A in rivolta, la Serie B non è assolutamente unanime, tanto è vero che Brescia e Latina sono già sfilati, altri club ci saranno, la Lega Pro nemmeno, gli arbitri addirittura potrebbero a rinunciare ad astenersi e votare contro, allenatori e giocatori votano contro. Sì, si rischia di arrivare vicinissimi a quel 50+1% che viene evocato come sufficiente per essere eletti, difficilmente per governare. Alla terza votazione in poi ovviamente, perché le prime due prevedono un quorum molto più alto. Ma il problema è che in questo momento storico del nostro calcio, pensare, e non c'è nulla che riguardi le persone, di pregiudizievole o di pregiudiziale, il mio è un giudizio assolutamente di carattere politico sportivo. Pensare di affidare la rifondazione del sistema calcio italiano, che ha fallito, ad alcuni dei personaggi che in questo sistema, in questi anni, hanno ricoperto incarichi di grande importanza e poi pronunciano frasi come quella pronunciata da Tavecchio il 25 luglio presentando la sua candidatura. Poi ci viene a dire che si pensava che una volta le donne fossero handicappate per giocare a calcio. Poi ci viene a dire che è stato trattato peggio dell'assassino di John Kennedy, che mi pare non abbia fatto una bella fine il giorno dopo l'attentato di Dallas. Ecco, noi proviamo ad immaginare come il calcio italiano possa riguadagnare credibilità in campo internazionale alla prima riunione dell'esecutivo UEFA e FIFA in cui si parla di misure contro il razzismo. Sì, non è un caso che FIFA e UEFA difatti si siano mosse abbastanza in fretta. Antonello da Cesena. Antonello. Caserta, non Cesena. Caserta, prego. Allora, per quanto riguarda Tavecchio, avrei un nome per la presidenza, sì. Giovanni Galli. Giovanni Galli. Sì, persona che ha fatto calcio, è stato anche politicamente esposto, quindi potrebbe essere utile. E a Tavecchio gli diamo la vicepresidenza con la delega all'immigrazione. Grazie. Sì, che lui ha detto aver creato sperando che su quella poltrona ci vada un calciatore, possibilmente. No, però a me Giovanni Galli non piace. Mario da Roma, Mario. Mario no, è caduta la linea. Jacobelli, dove va Cerci? Milan, Torino, Atletico Madrid? Allora, in questo momento la posizione della sesta granata è stata riassunta con grande chiarezza ieri sera dal presidente Urbano Cairo, e cioè, se arriva una offerta di 20 milioni di euro, il Toro cede Cerci al Milan o all'Atletico Madrid. Il problema è che in questo momento il Milan, salvo colpi di scena clamorosi o salvo il fatto che Berlusconi Silvio decida di mettere sul piatto di sua iniziativa 20 milioni di euro, questa somma da pagare al Toro per acquistare il cartellino di Cerci non ce l'ha. Ce l'avrebbe invece l'Atletico Madrid. Ora sarà decisiva, come sempre in questi casi, la volontà del giocatore. Sì. Perché Cairo è stato chiaro, se Cerci dovesse chiederci di partire, lo lasceremo andare, ma alle nostre condizioni. Sì, Cerci che non mi sembra avere la faccia di uno che a Torino ci vuole stare. Poi non so se il Milan è in grado di mettere in piedi in questo momento un'operazione da 20 milioni di euro. È no. Vero che ci sono i risparmi di stipendio, li abbiamo elencati, Robinho, Kakà soprattutto, anche Constant, però poi lì bisogna pagarlo con soldi veri, Cairo, e non bastano i risparmi. C'è Mario da Roma? Mario? Sì, buonasera. Prego. Niente, io volevo soltanto dire questo. Che questo linciaggio nei confronti di questa persona che ha chiesto scusa e che fra l'altro è sponsorizzato da l'unico, forse uno dei pochissimi allenatori, io sono un romanista, presidente di calcio che ha sbattuto in faccia la porta ai cosiddetti club organizzati, perché il signor Lotito non si fa piegare per i gatti, per me già è una grossa garanzia. Per quanto riguarda poi le anime belle, come il vice direttore della Gazzetta dello Sport, che dice che Galliani chiaramente è stata una parte perché Mediaset sta, ma perché lui da che parte sta? Essendo sì, a me sembra che Zappelloni stesse facendo un discorso un po' diverso, cioè stesse dicendo attenzione, ma del resto l'abbiamo anche detto noi in questi giorni, dietro gli schieramenti, dietro le due candidature poi ci sono interessi superiori, interessi che rimandano, superiori dal punto di vista economico, dei soldi, che rimandano certamente a quelli che sono gli equilibri in Lega, e ovviamente da questo discende a chi controlla quella torta da 1 miliardo di euro, però Mario, perdonami, non mi sembra un linciaggio quello nei confronti di Tavecchio. Se uno si candida a guidare il calcio italiano, se uno cade in quello in cui è caduto Tavecchio, mi sembra che poi qualunque anche polemica dura per scegliere o no un campo sia assolutamente legittima. Iacobelli? No, io dico soltanto una cosa, non c'è nessun linciaggio. Facciamo il mestiere di cronisti, perché se no, altrimenti, se non dobbiamo riportare quello che accade, allora facciamo un altro mestiere. Allora, io vorrei soltanto, come ha detto giustamente Daniele De Rossi, vice capitano della Roma, nonché settimo nella graduatoria delle presenze con la maglia azzurra, campione del mondo nel 2006 e vice campione d'Europa nel 2012, un'affermazione del genere, proferita in Inghilterra, in Germania, in Spagna, in Francia, negli Stati Uniti, avrebbe immediatamente determinato l'accompagnamento alla porta di colui il quale avesse pronunciato queste parole. Ma ci rendiamo conto della gravità di quello che è stato detto, o facciamo finta di niente, o diciamo, come dicono i grandi elettori di Tavecchio, che si è trattato di una frase infelice? Si è trattato di una frase razzista, e se ci fosse una giustizia sportiva che in questo paese funzionasse, il signor Tavecchio, che peraltro è presidente della Lega Nazionale Dilettanti, dovrebbe essere già stato deferito, perché dovrà spiegare ai tifosi delle curve che dovessero essere chiuse nel prossimo campionato per cori razzisti come si comporterà, altro che venirci a dire che vuole nominare il commissario che si occupi dell'integrazione razziale. Ma qui siamo sempre ai due pesi e alle due misure. Ma magari accadrà, magari Palazzi arriverà a questo deferimento. C'è, qualcuno l'ha anche scritto che nei prossimi giorni potrebbe esserci qualche sorpresa anche da questo punto di vista. Grazie direttore. Buon pomeriggio. Grazie a Xavier Iacobelli, ci fermiamo qui, appuntamento lunedì a partire dalle 14. Io ringrazio Claudia Schiattone e Fabio Cantadori, a lunedì. Hi, everybody, as captain of Juventus, I hope let me try this one with Patrice, can that move across? Let's have a look. Hi to everybody, as captain of Juventus, I hope you will enjoy Sunday match. And niente, andiamo su italiano.